Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti appunto alla nostra rassegna stampa dedicata all'Europa, ai temi dell'Europa, ai giornali europei, ma non solo. Cominciamo dal tema di cui si è parlato tanto anche qui a Radio 24 per la cronaca ma anche per le riflessioni, che è quello della decisione dell'Austria di innalzare quello che non si capisce bene se sarà un muro permanente o no alla frontiera del Brennero, quindi alla frontiera con l'Italia. Il commento, che uno dei tanti commenti che ho visto, è apparso sulla Wiener Zeitung, un giornale di Vienna, e si intitolava "La paura blocca il Brennero". Lo trovate anche su Internazionale, l'ha scritto Reinhard Goevel, e ve ne leggo una parte. È il valico alpino più trafficato e un emblema dell'Europa unita. Inoltre l'Austria ha un importante ruolo politico nella tutela dell'Alto Adige. A Bruxelles i rappresentanti del Tirolo del Nord e del Sud e quelli del Trentino hanno gli uffici nello stesso edificio, una sorta di ambasciata che oltrepassa i confini. Il Brennero è molto più che un passo a 1300 metri sul livello del mare, è un simbolo. Ma sembra che al governo austriaco importi poco. Senza che nessuno glielo avesse chiesto, il ministro della difesa Hans-Peter Dost-Kozil ha spiegato che 300 soldati sono pronti a difendere il Brennero e che se ne dovessero servire di più il contingente sarà rafforzato. È un tema che avevamo visto anche nella settimana scorsa, perché l'Austria è, o meglio i politici austriaci e parte dell'opinione pubblica austriaca, hanno paura di questa immigrazione che preme ai loro confini, come ai confini della maggior parte dei paesi europei e non solo, e quindi avevano già annunciato queste misure. Adesso vedremo un po' come andrà a finire, perché in realtà da Bruxelles è arrivato uno stop, però poi, come sappiamo, non esistono figure a Bruxelles in grado di impedire queste scelte dei singoli stati o di imporre un altro tipo di scelte. Sono mesi che parliamo di un accordo sull'immigrazione. Passiamo a un altro argomento che abbiamo citato, l'opinione pubblica, che in realtà è legato a questo, perché questo è un articolo molto interessante scritto da Giampaolo Accardo per il sito Vox Europe, che sapete cito sempre, lo trovate appunto anche voi, potete consultarlo, e tra l'altro c'è la possibilità di postare dei commenti, di interagire con gli altri utenti o anche di fornire dei contributi. L'indirizzo è www.voxeurope.eu e il titolo di questo articolo è "Crisi e austerity hanno reso l'opinione pubblica meno tollerante". Perché se per tanti anni abbiamo accolto anche molti immigrati, lo hanno fatto in tanti paesi, ma lo hanno fatto anche tanti paesi europei, lo sappiamo, la Germania per prima, ma anche i paesi del nord Europa, dove adesso sappiamo che ci sono dei problemi, in Svezia, in Danimarca, abbiamo visto proprio delle decisioni che hanno anche sorpreso, perché pensavamo che ormai fossero consolidate le politiche di accoglienza e di integrazione, e naturalmente abbiamo scoperto che non è così. Ma questo articolo è interessante perché appunto torna su questo tema del fatto che quando alla paura che dà comunque l'immigrazione si aggiunge la crisi economica che ha colpito ampie fasce della popolazione, perché tra l'altro ha acuito ancora di più le differenze tra ricchi e poveri, e ecco appunto che magari la tolleranza anche nelle persone di buona volontà, potremmo dire così, diminuisce. Questo quindi su Vox Europe lo trovate, tra l'altro con una serie di esempi lunghissimi, molto interessanti, uno più interessante dell'altro. Sul tema invece della, è anche qui legato se vogliamo all'intolleranza, alla paura, più alla paura diciamo, sul tema che avevamo toccato anche settimana scorsa, quello del referendum che c'è stato in Olanda, e anche qui a sorpresa pensavamo che l'Olanda fosse uno dei paesi più aperti per esempio all'allargamento dell'Unione Europea, è stato non uno dei paesi fondatori, però poi è entrato quasi subito l'Olanda e i Paesi Bassi. Anche in questo referendum gli olandesi hanno bocciato, è un referendum puramente consultivo, però hanno bocciato, ed è stato un segnale che molti hanno considerato significativo, hanno bocciato un possibile ingresso dell'Ucraina, ancora tutto da definire, con un percorso tutto da definire che comunque sarebbe molto lungo, dell'Ucraina nell'Unione Europea. E la vignetta, tra l'altro apparsa su The Volkskrant, vede proprio un omino pieno di acciacchi, potremmo definirlo così. Questo omino ha sui pantaloni c'è scritto Ucraina e in mano ha una bandiera dell'Unione Europea, quella con lo sfondo blu e le stelle, e c'è una signora che gli dà un sonorissimo calcio, e questa signora in questo caso è l'Olanda, però molti commentatori hanno ipotizzato, insomma, se si tenessero referendum simili in altri paesi, chi lo sa quale sarebbe l'esito, addirittura per esempio se si proponesse una possibile riapertura dei negoziati per l'ingresso della Turchia, di cui si era parlato tanti anni fa, che molti avevano pensato potesse essere l'ideale per costruire una sorta di cerniera tra Islam moderato e Unione Europea. Un altro articolo interessante che ho trovato questa settimana, e anche in questo caso lo trovate poi su Vox Europe, è un intervento di Zygmunt Bauman, il grande sociologo, il teorico, lo sapete, della società liquida, che torna un po' sulla questione degli attentati e fa un appello che potremmo chiamare quasi disperato. Insomma, è sicuramente un sociologo di grandissima esperienza, ha visto tantissime cose, ha visto anche molto da vicino le due grandi guerre mondiali del secolo scorso, e quindi invita a combattere il terrorismo, invita gli europei a combattere il terrorismo riaffermando i suoi valori fondamentali e proponendo soluzioni concrete che sarebbero l'unico antidoto alla radicalizzazione dei giovani, soprattutto dei giovani musulmani all'interno dell'Unione Europea. Cambiamo un pochino argomento, perché la Frankfurt Allgemeine Zeitung, il quotidiano tedesco di Francoforte, spiega che la Commissione Europea starebbe valutando la possibilità di aiutare l'industria dell'acciaio con sussidi statali, questione che riguarda l'Italia molto da vicino, lo sapete, per l'Ilva, questo grande impianto gigantesco, questo gigante morente potremmo definirlo, che però comunque rappresenta appunto l'industria dell'acciaio in Italia, e un'industria dell'acciaio che tanto morente non è, perché di acciaio abbiamo ancora bisogno. Però una delle ragioni della crisi dell'Ilva sono tantissime, ma una delle ragioni della crisi dell'Ilva è sicuramente anche la concorrenza dai paesi extra UE, e allora da qui appunto forse l'idea che in questo caso degli aiuti a questa industria, che comunque è molto labor intensive, impiega tante persone, potrebbero tornare sul tavolo della Commissione Europea. Un altro tema che abbiamo toccato, e come vi dico sempre continueremo a seguire da qui a giugno, è quello della Brexit, la possibile uscita della Great Britain dall'Unione Europea. Ecco, nel caso dell'Unione Europea stiamo parlando di un membro fondatore, uno dei sei membri fondatori dell'Unione Europea, in cui l'opinione pubblica esprime da molti anni malessere per soprattutto la burocrazia e le regole che arrivano da Bruxelles. Lo ricordiamo, non è mai entrata a far parte dell'euro. Il 23 di giugno si voterà per una possibile uscita del paese dall'Unione Europea. In questo caso i sondaggi che abbiamo visto nelle settimane scorse stanno facendo soprattutto, come ovvio che sia, i quotidiani britannici. Questa volta il sondaggio lo prendiamo da Le Monde, da Le Figaro, perché secondo il quotidiano francese è la maggioranza degli europei a non volere l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Lo studio è stato condotto in 5 paesi, e più precisamente Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Polonia, e fatta eccezione per il Regno Unito, dove, come abbiamo visto anche settimana scorsa, la differenza la faranno gli indecisi, perché in questo momento chi è per il sì e chi è per il no, cioè chi per il in, chi per l'out, sono più o meno appaiati. Ecco, quindi ad eccezione del Regno Unito, tutti gli altri vorrebbero che la Gran Bretagna restasse all'interno dell'Unione Europea. Vi segnalo, a proposito di Francia, un ultimo articolo, anche in questo caso lo potete trovare sul sito di Internazionale, è apparso su Libération e parla del confronto tra il movimento dell'Indignados nel 2011 in Francia e in Spagna, e tutto quello che sta succedendo adesso in Francia come reazione alla riforma del lavoro, che assomiglia per certi versi, lo abbiamo detto nelle settimane scorse, al nostro Jobs Act, e che è stato approvato in maniera edulcorata, ma neanche così va bene a larghe fasce della popolazione francese, soprattutto i giovani, che quindi continuano a scendere in piazza per protestare. E non escluso che Hollande, che con l'orizzonte delle politiche in vista, decida di andare incontro ad alcune delle richieste di riforma, di cambiamento di questa riforma, grande riforma del lavoro della Francia. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.